Maria, sede della Sapienza. Allora carissimi, siamo giunti all'ultima puntata degli incontri biblici anno 2011-2012. Ecco, questa sera con l'aiuto di Dio e dell'Immacolata chiuderemo con un altro splendido libro che è il libro del Siracide. Adesso vedremo le prime slides introduttive che sono queste. Se ci leggete lì con i pixel, per dar gusto a Dio bisogna camminare contracqua, cioè contragenio. Questo è un poster che sta dentro un corridoio di un monastero santissimo. Se vedete lì quelle suore col velo azzurro, ecco, monastero di Città di Castello. Questo è un particolare degli interni. Ecco, questo perché il libro del Siracide. Quindi lì c'è praticamente un'esortazione di tipo morale in quel cartello, quindi per dare gusto a Dio bisogna andare controcorrente. E il libro del Siracide, che è l'ultimo dei libri sapienziali, è stato da sempre utilizzato per la formazione morale dei fedeli, cioè contiene una quantità davvero sterminata, perché adesso vedremo, sono oltre 50 capitoli, di esortazioni e di consigli e di massime su come regolarsi proprio in svariatissime circostanze della vita, appunto dal punto di vista morale. Quindi è un libro molto bello, anche questo, quei compiti per le vacanze, sarà da leggere tutto il libro della Sapienza e tutto il libro del Siracide, perché sono libri facilissimi, anche questo è proprio di una facilità estrema, e però di una profondità. Infatti larga parte di questa sera la dedicheremo alla lettura di alcuni stracci, che veramente è difficilissimo fare una cernita, perché ci sono tantissime suggestioni degne di essere lette, meditate a lungo per essere messe in pratica. Allora, anticamente nella Vulgata questo libro veniva chiamato Ecclesiastico. Se vi ricordate, il Coelet era Ecclesiaste, mentre questo era Ecclesiastico. Questo termine è stato coniato da San Cipriano di Cartagine, che vedete nella miniatura a destra della slides, vescovo e martire, nel III secolo. È stato denominato Ecclesiastico, che è una terminologia, quindi il libro della Chiesa, proprio perché ne voleva designare, perché il libro della Chiesa, quindi il libro di coloro che sono già cristiani, perché devono imparare attraverso questo libro come vivere, e quindi per designare l'uso in parte liturgico, in parte quindi la lettura durante la liturgia, in parte catechetico, il largo uso del Siracide durante la catechesi, a scopo parenetico. Parenetico è una parola insomma greca, che vuol dire letteralmente esortazione morale. Quindi era un testo che veniva utilizzato per fare delle esortazioni circa comportamenti morali da tenere nelle varie circostanze della vita, che adesso poi vedremo. L'autore questa volta non è Salomone, è Gesù Ben Sira, si chiama proprio così, o Ben Sirach se uno lo pronuncia ebraicheggiando, come ci dice testualmente al capitolo 50, lo leggiamo, versetto 27, che è diciamo il versetto in cui comincia l'epilogo del libro. Adesso lo ritroviamo immediatamente, vedete: una dottrina di intelligenza e di scienza ha condensato in questo libro Gesù, figlio di Sira, figlio di Lazzaro, di Eleazzaro, di Gerusalemme, che ha riversato come pioggia la sapienza del cuore. Quindi l'autore è, adesso poi vedremo alcuni dettagli su questo punto. Ora, non lo troviamo nel testo informatico che io ho, ma nel testo della Bibbia della CEI, per chi ce l'ha, prima del primo capitolo si trova un prologo che non appartiene al testo ispirato. Questo prologo è stato scritto dal traduttore greco, perché a noi il libro del Siracide è giunto soltanto nella traduzione greca, quindi la versione ebraica è andata perduta. Questo libro non si trova nel canone delle scritture ebraiche, ma soltanto in quelle cristiane, tra l'altro cattoliche. E la traduzione è stata fatta testualmente dal nipote di Ben Sira, che parla proprio esplicitamente nel prologo di mio nonno Gesù. Joshua era un nome abbastanza diffuso in Israele, quindi non pensate che si chiamasse Gesù soltanto Gesù. Cioè, noi chiamiamo, per esempio, Giosuè, non so se vi ricordate, abbiamo fatto, cioè, lo chiamiamo Giosuè, ma il nome ebraico è Gesù, cioè si chiama Giosuè proprio per distinguerlo, perché sennò dopo, cioè, il libro di Gesù uno oggi se sarebbe un po', però in ebraico è lo stesso identico nome, quindi era un nome conosciuto in Israele. Allora lui dice che ha fatto questa traduzione nell'anno 38 del re Evergete, quindi nel 132 avanti Cristo, dal che si deduce che probabilmente la redazione originale ebraica è avvenuta tra il 196 e il 175 avanti Cristo, quindi un testo molto tardivo, e questo sicuramente sì. Mentre alcuni, ho detto le volte scorse, vi ho accennato, esegeti un po' modernisti, hanno postdatato alcuni libri attribuiti a Salomone. Vi ricordate che Salomone è vissuto nel X secolo avanti Cristo, quindi non nel terzo, come questi. Questo testo sicuramente è un testo tardivo, quindi non è appartenente, diciamo, al periodo classico, diciamo così, dell'ebraismo. Detto questo, vediamo un attimo qualcosa sulla struttura del libro del Siracide. Allora, abbiamo 51 capitoli divisi in tre grandi parti, anche se è molto difficile, cioè la distinzione in parti è fatta, vedremo, in termini molto molto generici, perché il libro è scritto così, sono tutte quante sentenze. Però, a differenza del libro dei Proverbi, ricordate il libro dei Proverbi, generalmente sono sentenze, raggruppate per argomenti. Adesso lo vedremo subito. Cioè, non c'è un proverbio che passa di palo in frasca nel giro di un versetto. Cioè, generalmente sono una serie anche lunga, anche 10, anche 15, anche 20, anche due capitoli di seguito, sempre scritti in forma di aforisma e di sentenza. Cioè, due frasi che danno un giudizio, insomma, un'affermazione perentoria, però questa volta raggruppati per argomenti. Ora c'è, dopo il prologo, che appartiene, diciamo però così, non al testo ispirato, quindi che non va considerato, c'è una prima lunghissima sezione che abbraccia quasi 42 capitoli, che è una lunga raccolta di sentenze su argomenti vari. Adesso ne vedremo alcuni, tanto per farci un'idea tra i brani scelti. Ecco, al 16° versetto del capitolo 42 cambia proprio argomento e cambia stile, perché si comincia a parlare della gloria di Dio nella creazione, motivo per cui vedete quella splendida slides di quel bellissimo bosco attraversato dal ruscello delle rocce delle Dolomiti. E poi al capitolo 44 si parla sempre della gloria di Dio, stavolta nella storia della salvezza. Facciamo il racconto degli uomini famosi, viene fatta una rassegna, l'abbiamo visto anche nel libro della Sapienza, se vi ricordate, di una serie di personaggi biblici illustri, fino ad età molto molto avanzata, perché si parla anche di Zorobabele, quindi si arriva fino a circa il V secolo avanti Cristo, dai tempi insomma antichi, dove si manifesta come la gloria di Dio, si è manifestata nella storia della salvezza. E infine un epilogo, dove è contenuto anche, diciamo, la firma dell'autore, e diciamo, la parte conclusiva e conclusiva, che è una lode a Dio e alcune considerazioni finali sulla sapienza. A questo punto la cosa migliore è andare a, come sempre per questi libri, a leggere alcuni brani scelti. Vari, ci sono veramente alcuni che sono veramente stupendi. Cominciamo dal capitolo 1, che è un po' l'overture, leggiamo: ogni sapienza viene dal Signore e con Lui rimane per sempre. La sabbia del mare, le gocce della pioggia e i giorni dei secoli, chi li potrà contare? L'altezza del cielo, la distesa della terra e le profondità dell'abisso, chi le potrà esplorare? Prima di ogni cosa fu creata la sapienza, e l'intelligenza prudente è da sempre. Fonte della sapienza è la parola di Dio nei cieli, e le sue vie sono i comandamenti eterni, prima massima da incorniciarsi e attaccare in camera. La radice della sapienza a chi fu rivelata, e le sue sottigliezze chi le conosce? Ciò che insegna la sapienza a chi fu manifestato, la sua grande esperienza a chi la comprende. Uno solo è il sapiente e incute timore, seduto sopra il suo trono. Il Signore stesso ha creato la sapienza, l'ha vista e l'ha misurata e l'ha effusa su tutte le sue opere. A ogni mortale l'ha donata con generosità, l'ha elargita a quelli che lo amano. L'amore del Signore è sapienza che dà gloria a quanti egli appare e la dona perché lo contemplino. Guardate, il timore del Signore è gloria e vanto, gioia e corona di esultanza. Adesso inizia una nuova sezione dedicata al timore del Signore. Quando noi sentiamo timore del Signore non vuol dire paura del Signore. Il timore del Signore, come dire, include in sé, diciamo così, una forma filiale e sfocata, tenue di paura, perché il timore del Signore è il senso della sua grandezza, della sua santità e quindi dell'amore, della riverenza e dell'obbedienza che gli è dovuta. Mentre la paura di Dio è, come dire, ha come termine di riferimento il fatto che io so che Dio castiga il male, quindi ho paura che mi castighi. È una disposizione non cattiva, ma imperfetta, perché guarda sempre il proprio egoismo. Il timore del Signore, invece, è differente, perché ha come oggetto Dio, cioè, ripeto, il senso di riverenza, di obbedienza, di adorazione e di tutto quello che si può immaginare che è dovuta alla grandezza e alla santità di Dio, in quanto Dio. In questo senso il timore del Signore è gloria e vanto, gioia e corona di esultanza, lieta il cuore, dà gioia, diletto e lunga vita. Il timore del Signore è dono del Signore, esso conduce sui sentieri dell'amore. Vedete, questa forma di timore porta ovviamente all'amore di Dio e del prossimo. Chi teme il Signore avrà un esito felice. Nel giorno della sua morte sarà benedetto. Principio di sapienza è temere il Signore. Essa fu creata con i fedeli nel seno materno. Quindi vedete come c'è una relazione, come dire, inscindibile tra la sapienza e il timore di Dio. Perché la sapienza nasce dal timore di Dio. Non ci può essere sapienza senza senso di Dio, della sua maestà e della sua grandezza. Pienezza di sapienza è temere il Signore. Vedete, guarda, vi faccio notare. Principio della sapienza è temere il Signore. Pienezza della sapienza è temere il Signore. Più sotto vedremo. Corona della sapienza è temere il Signore. E radice della sapienza è temere il Signore. Questi quattro, questo è, vedete, mezz'ora, e fate l'orazione mentale sul primo capitolo del libro del Siracide, va fatta benissimo. Pienezza di sapienza è temere il Signore, essa inebria di frutti i propri fedeli, riempirà loro la casa di beni desiderabili, le dispense dei suoi prodotti. Corona di sapienza è il timore del Signore, essa fa fiorire pace e buona salute. L'una e l'altra sono doni di Dio per la pace, si estende il vanto per coloro che lo amano. Egli ha visto e misurato la sapienza, ha fatto piovere scienza e conoscenza intelligente, ha esaltato la gloria di quanti la possiedono. Radice di sapienza è temere il Signore, i suoi rami sono abbondanza di giorni. Vedete, il timore del Signore tiene lontano i peccati, timore santo di Dio. E chi vi persevera respinge ogni moto di collera. Chi è collerico sappia che se si esercita nel timore del Signore migliorerà, a quanto dice il libro del Siracide. Qui c'è una piccola sezione dedicata alla collera e alla pazienza. La collera ingiusta non si potrà scusare. Il traboccare della sua passione sarà causa di rovina. Il paziente sopporta fino al momento giusto, ma alla fine sgorgerà la sua gioia. Fino al momento opportuno terrà nascoste le sue parole e le labbra di molti celebreranno la sua saggezza. Fra i tesori della sapienza ci sono massime sapienti, ma per il peccatore è obbrobrio la pietà verso Dio. Se desideri la sapienza, facilissimo, osserva i comandamenti e Dio te la concederà. Il timore del Signore è sapienza e istruzione, egli si compiace della fedeltà e della mansuetudine. Non essere disobbediente al timore del Signore, non avvicinarti ad esso con cuore falso, non essere ipocrita davanti agli uomini e fa attenzione alle parole che dici. Non esaltarti se non vuoi cadere e attirare su di te il disonore. Il Signore svelerà i tuoi segreti e ti umilierà davanti all'assemblea, perché non ti sei avvicinato al timore del Signore e il tuo cuore è pieno di inganno. Della sapienza si parla anche, facciamo un saltino, al capitolo 4, versetti 11-19. Facciamo un piccolo salto perché rimaniamo nel tema. La sapienza esalta i suoi figli, si prende cura di quanti la cercano. Chi ama la sapienza ama la vita. Chi la cerca di buon mattino sarà ricolmo di gioia. Chi la possiede erediterà la gloria. Dovunque vada il Signore lo benedirà. Chi la venera rende culto a Dio, che è il Santo, e il Signore ama coloro che la amano. Chi l'ascolta giudicherà le nazioni, chi le presta attenzione vivrà tranquillo. Chi confida in lei l'avrà in eredità, i suoi discendenti le conserveranno in possesso. Attenzione adesso, questo è legge assoluta. Cosa fa la sapienza? Dapprima lo condurrà per vie tortuose, gli incuterà timore e paura, lo tormenterà con la sua disciplina finché possa fidarsi di lui e lo abbia provato con i suoi decreti. Ma poi lo condurrà su una via diritta e lo lieterà, gli manifesterà i propri segreti. Questo c'è un principio conosciuto in tutta la teologia ascetica e mistica, tutta, e vale anche per voi, chiunque ci abbia voglia di diventare. Allora, l'inizio del processo della conoscenza della sapienza è doloroso per tutti, perché bisogna passare attraverso la purificazione di tutta la monnezza che ci portiamo dentro, e chi pensa di non averla sta ancora molto lontano non solo che dalla sapienza ma anche dalla verità. E il buon santo curato d'Ars diceva: se tu vuoi tirare fuori qualcuno dai peccati, chi osava specialmente dai peccati impuri, sapete cosa devi fare? Lo devi terrorizzare. A noi oggi ci suonano strane queste parole, già so che tutti dicono no, non si fa così. I santi però dicevano così: terrorizzare devi dire, nel senso che gli sbatti dalla nasi, se non la pianti te ne vai all'inferno dritto dritto, e seppure la pianti sappi che per tutto quello che hai fatto dovrai soffrire per tutta la vita terrena e per tutto il purgatorio che dovrai fare, punto. Questo è quello che hanno sempre detto. Però i santi lo trovano qui, cioè, perché la dottrina dei santi, anche se a noi ci sembra a volte un po' stramba perché siamo noi che siamo malati oggi, è sempre biblicamente fondata. Dapprima lo condurrà per vie tortuose, gli incuterà timore e paura. Questo perché? Perché purtroppo, e questo ne facciamo esperienza, questo è noto per esempio in psicologia. La psicologia dice un sacco di cretinate, d'accordo? Qualche cosa di giusto la dice. Ci sono alcune tare caratteriali, alcune forme che rasentano le nevrosi, o meglio le psicosi, per cui lo sai come guarisce una persona? Soltanto quando si spaventa, cioè quando la metti davanti, ma ti spaventa del brutto, cioè io faccio senza nessuna offesa a nessuna, c'è una moglie nevrotica isterica, proprio di quelle che però ti fanno, di quelle che non ci si può ragionare, che ti fa passare la vita, se no si mette paura. Quando il marito la via e se ne va per una settimana, cioè quando lei capisce che se continua a fare così passerà dei guai grossi, e non è che lo capisce nella testa, ma viene proprio messa dinanzi a una cosa di questo genere. ma io potrei fare una serie di esempi sterminati per quanto si procede. Purtroppo, cioè, ha voglia a spiegargli le cose, guarda, non fare così perché fai così, esasperi chi ti sta vicino, mandi a manicomio i figli, tu glielo spiego, lo pure capisce, ma se non viene posto dinanzi a una cosa del genere, non cambia, non lo smette, non la pianta. Io vi dico da prete che molti mariti sono responsabili del fatto che le mogli hanno continuato ad essere così perché si sono messi la gonna i mariti al posto delle mogli. Cioè, perché l'essere maschio, perdonatemi, in alcune circostanze vuol dire anche essere maschio. Cioè, a un certo punto dico, oh, è necessario farlo in alcune circostanze. Ecco, allora, sotto questo punto di vista noi siamo tutti dinanzi a Dio, specialmente i peccatori, un po' psicotico, femminile, nevrotico. Ecco. Quindi, se non arriva qualche bella, a Roma dicono, stretticata, uno non la pianta, continua, dice, vabbè, ma che gli fa, ma tanto va a confessare, ma tanto Dio poi ci perdonerà, ma che gli fa? Quindi, ok, va bene. Quindi questa è una massima questa qui, Quindi prima le vie tortuose, timore e paura, lo tormenterà con la disciplina, cioè devi, questo, la tua vita deve prendere delle regole, si deve camminare per la via dritta, quindi noi siamo tutti quanti sregolati, e sgangherati e ecco, non esiste vita interiore, questo chi vuole, chi cammini spirituale lo sa benissimo. Non esiste spiritualità, per esempio, senza una vita ordinata, dentro la cornice di un piano di vita che devi osservare per forza, altrimenti non ci diventi mai. Non è proprio possibile, Tu puoi dire, puoi rimanere fedele, puoi non andartene all'inferno, puoi essere osservare i 10 comandamenti, sì, a diventare santo e sapiente te lo scordi, se non c'è questa cosa. Quindi quando uno è passato per questo travaglio, ecco, vedete, finché possa fidarsi di lui, quindi bisogna vedere, perché prima che Dio ti confida i suoi segreti, che ti dà la sua luce, che ti dà le sue confidenze, ti deve provare, deve vedere quanto ti interessano queste cose, perché se una cosa ti interessa tu sei disposto a soffrire per averla, se non sei disposto a soffrire quella cosa non ti interessa. E se non ti interessa, Dio non te la dà questa qui, Perché le cose preziose non vanno date. Dio dà a tutti la grazia sufficiente per essere salvati e per non andare all'inferno. Questa la dà a tutte le creature razionali. Ma le perle, quindi le chicche, la sua amicizia, la sua sapienza, le sue consolazioni, i suoi doni, la sua compagnia, non li dà a tutti. Li dà a chi si dispone a riceverli passando attraverso queste cose. Non so se, ecco, bisogna ricordarle bene queste qui, Se invece gli batte una falsa strada, anche questa grande parola piena di sapienza, lo lascerà andare e lo consegnerà alla sua rovina. E quando una persona si impunta a disperazione dei preti e non si mette a fare di testa propria, Dio ci prova, ma cioè, no, a un certo punto tu capisci che non c'è niente da fare, cioè fino a quando non si smuove qualcosa, quella persona continua ad andare per la sua strada e qualcuno dice che, però questa è una cosa un po' misteriosa perché andrebbe un pochettino indagata, però qualche santo questo lo ha insegnato, che a un certo punto se tu continui, sputi sopra le grazie che Dio ti dà, una volta, due volte, tre volte, quattro volte, cinque volte, a un certo punto dice, ah sì? Accomodati e fa come ti pare. Cioè, quando Dio ti lascia perdere, cioè nel senso che non ti richiama, non ti pungola, non ti cosa, ti puoi cominciare a preoccupare. Perché vuol dire che tu hai talmente tanto, questo è uno dei peccati contro lo Spirito Santo. Leggete le prossime settimane, le settimane di Padre Pio, gli articoli. Per questo è un peccato contro lo Spirito Santo. Cioè, il calpestare le grazie che Dio ti fa. Quindi lì di impuntarti su alcune cose, quindi ostinarti nei peccati, non convertirti mai, te lo dice una volta, te lo dice due volte, te lo dice tre volte, quattro volte, cinque volte, sei volte, eccetera, determina una situazione di indurimento nel male. Perché a un certo punto, questa è una cosa un po' misteriosa, per noi dice, Vuoi questo? E abbi questo. Fa un po' come il figlio del prodigo. Vuoi la tua parte di bene, andare a fare come ti pare? Se questo vuoi, cioè il rispetto della nostra libertà è sempre sovrano, eh? Dio su questo, noi ci segniamo con i nostri atti liberi o volontari la sorte della nostra vita terrena e ultraterrena. Scusate se mi sono dilungato un po' su queste cose, ma sono abbastanza importanti. Un'altra cosa fondamentale, senza commento questo qui, ma questo bisogna farci un quadretto, perché tutti quelli che cominciano la vita interiore si scandalizzano e dicono: ma stavo tanto meglio prima, ma non c'avevo tutti questi problemi, tutte queste contrarietà, tutte queste tribolazioni, tutte queste difficoltà, tutti questi brutti pensieri. Ecco. Allora, siccome molti di quelli che stanno qui io li conosco un po', aprire le orecchie, bene, eh? Quindi che si lasci dei due, bisogna fare orazione mentale una volta, ma massimo una volta al mese, fisso per almeno 20 anni. Ecco. Che dice? Figlio, se ti presenti per servire il Signore, preparati alla tentazione. Clarus, perché il demonio non sta a guardare tu che dici: ah, voglio diventare un santarello come San Francesco, voglio fare tutte le belle virtù. E quello tu pensi che sta a guardare te. Dice: sì, vediamo. E Dio te lo permette di fare. Appena uno si muove, scende subito in campo il leone ruggente, su immediatamente, non c'è scampo, nessuno ha risparmiato da questo. Allora, che cosa bisogna fare? Numero uno, abbi un cuore retto. Numero due, sii costante. Santa Teresa d'Avila dice: senti un po', tu ti sei messo in testa e vuoi diventare santo? Ci vogliono soltanto due cose. Uno, la volontà risoluta. Hai deciso di farlo, l'hai deciso di fare e basta. Secondo, una volontà risoluta vuol dire una volontà costante, vuol dire che tu, se ti metti in testa di fare questo cammino, succeda qualunque cosa, ti perseguiti chi ti vuole perseguitare, chiacchieri chi vuole chiacchierare, calunni chi vuole calunnare, si arrabbi chi vuole arrabbiare, ma si va avanti e non si deflette neanche di una virgola. Se c'è questo, si supereranno tutte le tribolazioni e le difficoltà. Se non c'è questo, è meglio che non cominci per niente. D'accordo? Stai unito a lui senza poi, sii costante. Non ti smarrire nel tempo della prova, perché tutti siamo provati. Tutti. Quanto dura la prova? A seconda di quanto la facciamo durare noi, a volte, non Dio. Può durare un giorno, una settimana, un mese, 2 mesi, 3 mesi, 6 mesi, 1 anno, 2 anni, non si sa. Stai unito a lui senza separartene, quindi. Qual è il segreto? C'è la prova, mantenere l'unione con Dio. Ah, ma io faccio l'orazione mentale e sto a pensare agli affari miei. Ottimi pensieri. Stai lì mezz'ora, ecco. Santa Teresa d'Avila nei periodi di prova racconta: le carmelitane scalze, a differenza di noi, fanno 2 ore al giorno di orazione mentale, 2 ore, una la mattina e una il pomeriggio, e nei monasteri ricevono un clessidrone grande così, che all'inizio dell'orazione si girava la clessidra, doveva scendere tutta la sabbia. Quando era finita la sabbia, la preposta suonava la campanella e segnava la fine dell'orazione. Santa Teresa racconta, ci sono anche gli MP3 sul sito, andate a scaricare, che per diverso tempo la sua orazione mentale era guardare la sabbia e pensare: ce n'è ancora tanta. Non so, che una delle più grandi mistiche di tutti i tempi, d'accordo? Quindi ho pregato e mi sembra che sto a perdere tempo, perché ad appresso i miei pensieri. Sei più grande di Santa Teresa d'Avila, Dio. Ah, ci picchia Santa Teresa d'Avila, si è fatto queste cose qui e tu no. Ho capito. Senza separarti, quindi San José Maria Escrivá dice: sei arido? Benissimo. Quanto preghi ogni giorno? 2 ore? 2 ore e 5 minuti. non lo facciamo, dice, da 2 ore, allora non c'ho voglia, accorciamo, facciamo una. E no, il contrario. Cioè, ma non ci provo nessun gusto. Meglio ci provo gusto nostro, quanto meno gusto ci provi tu, tanto più gusto ci prova il Padre Eterno. Chi è più importante, il gusto tuo o il gusto del Padre Eterno? Ancora, accetta quanto ti capita. Noi stiamo sempre, sapete cosa dice Santa Caterina da Siena? Qual è la causa della sofferenza dell'uomo? Uno pensa, le malattie, le sofferenze, le contrarietà, i difetti degli altri, c'ho il marito cattivo, c'ho il vicino che bestemmia e picchia mio figlio. No, non è questo. Sapete qual è la causa delle nostre sofferenze? L'attaccamento alla nostra volontà. Solo quello. Perché quando uno non ha più volontà propria, non soffre più. Mi sei inceppato il computer e non posso finire, questo lo faccio per me, il file da caricare sul sito. Vai a dormire. Ma tranquillo, lo fai domani. Invece uno si arrabbia, si intigna le cose e fa. Non va bene. Così faccio esempi che colpiscono me. Ecco. Così nessuno sente colpito. Vai a dormire, che è meglio. Lo dico per facendo mea culpa. Lei c'è parafulmini. Ma che te parafulmini? Io so. Io non c'ho parafulmini, io sono bombardato dalle 4 della mattina fino a mezzanotte, compresa la notte, ininterrottamente, quindi che me so. Lasciamo perdere, con quello che mi sta continuamente alle calcagne, appiccicato, dico, ma. Ah, la prossima spesa grossa che faccio, regalo un televisore full HD e lo spedisco all'inferno. Dico, sentite, poi vi chiamo Maria De Filippi, dico, senti un po', fa qualche bel programma, falli un po' divertire a questi che si distraggono un po', se distendono un po', ecco. Che rido, ecco. Accetta quanto ti capita, quindi accettalo. Guardate che se uno fosse capace di fare questo, e sì, paziente nelle vicende dolorose, che in alcuni momenti arrivano i guai, che arrivano i guai, ti armi di santa pazienza e te li tieni, punto. Tanto non è che se te agili se ne vanno, peggiorano, ecco. Perché l'oro si prova con il fuoco e gli uomini ben accetti nel crogiolo del dolore, se arrivano i guai, ottimo segno. Viene una cosa che però vi ricordate, ricomincio da 3 con Massimo Troisi. A un certo punto lui si lamentava con un prete che c'aveva un sacco di guai, un sacco di robe. Dice, no, prete fa, quello è segno buono, perché vuol dire che il Signore ti vuole bene, che ti ha. No, dica che non fa niente, dica, non so, io non ci tengo per niente a fare che mi vuole bene, dica che vuole bene a qualcun altro. È una battuta un po' blasfema, però Santa Teresa, no? Non so se la lei o qualche altro santo, quando ha cominciato a vedere come agisce il Signore sulla base, dice, però scusa, te lo dico, però comincia a capire perché c'hai così pochi amici, quindi allora, nelle malattie, nella povertà confida in Lui. Affidati a Lui ed Egli ti aiuterà, raddrizza le tue vie e spera in Lui. Voi che temete il Signore aspettate la sua misericordia e non deviate per non cadere. Voi che temete il Signore confidate in Lui, la ricompensa non verrà meno. Voi che temete il Signore sperate nei Suoi benefici, sperate nella felicità eterna, andare in paradiso, nella misericordia, di avere il perdono dei peccati, perché la sua ricompensa è un dono eterno e gioioso. Attenzione. Considerate le generazioni passate e riflettete. Ah, mi sono stancato, adesso butto tutto per aria, è tutto inutile. Cretinoschi. Si può dire cretinoschi, si può dire. O scemoschi. Chi ha confidato nel Signore ed è rimasto deluso. Chi ha perseverato nel suo timore fu abbandonato. Chi lo ha invocato ed è stato trascurato. Perché il Signore è clemente e misericordioso, perdona i peccati e salva al momento della tribolazione. Adesso altro, qui facciamo le 4 stanotte, perché ci sono ancora 10 brani, però guai ai cuori pavidi, ai fifoni. ai fifoni, ai coniglietti e alle gazzelle spennacchiate e alle mani indolenti, bisogna operare, e al peccatore che cammina su due strade. Capite cosa significa camminare su due strade? Che cerca di conciliare Dio col mondo, ecco, che vuole l'uovo con la salsiccia, che dà una botte al cerchio e una alla, come si chiama, una botte al cerchio e una ecco, e una alla botte, che vuole, come si chiama, la botte piena, la moglie ubriaca, eccetera eccetera. Guai al cuore indolente che non ha fede, perché non avrà protezione. Guai a voi che avete perduto la perseveranza. Che cosa farete quando il Signore verrà a visitarvi? Poi quelli che temono il Signore non disobbediscono alle sue parole, e quelli che lo amano seguono le sue vie. Quelli che temono il Signore cercano di piacergli, a Lui, non agli uomini. E quelli che lo amano si saziano della legge, quelli che temono il Signore tengono pronti i loro cuori e si umiliano al suo cospetto, non davanti agli altri che fa il finto umile e così dicono: ma no, tu sei bravo. Tu umili davanti a Dio, che, sapete, si umilia davanti a Dio in due modi: quando durante la preghiera ci si umilia e quando ci si confessa. Quelle sono umiliazioni che non hanno nessuna controindicazione, che aiutano a farci, dici: io sono superiore, come faccio a diventare umile? Ecco. Oltre che a beccarti tutte le umiliazioni che Padre Eterno ti manda, tutte le altre cose, essere ubbidiente, a sottometterti a qualcuno che ti dirige, eccetera, umiliati davanti a Dio e confessati. Piano piano, quelli che temono il Signore tengono pronto il loro cuore e si illuminano al suo cospetto. Gettiamoci nelle mani del Signore, non in quelle degli uomini. Andare a cercare consolazioni umane, difensori umani, conforti umani, approvazioni umane. Poiché come è la sua grandezza, così è anche la sua misericordia. Una volta al mese, orazione mentale fissa su questo capitolo del libro del Siracide. Poi, i doveri verso i genitori, questo vale per queste esaurite. Ascolta, attenzione adesso, capito? 3:1:16. Figli, ascoltate me, vostro padre, e agite in modo da essere salvati. Il Signore ha glorificato il padre al di sopra dei figli e ha stabilito il diritto della madre sulla prole. Chi onora il padre espia i peccati, e chi onora sua madre è come chi accumula tesori. Chi onora il padre avrà gioia dai propri figli. Quindi chi non ha gioia dei figli non ha onorato il padre. Fate il contrario con queste cose qui, e sarà esaudito nel giorno della sua preghiera. Chi ci aveva pensato, no, Dio non mi ascolta le mie preghiere, hai sempre onorato tuo padre, onorato, non solo rispettato. Chi glorifica il padre vivrà a lungo, chi obbedisce al Signore darà consolazione alla madre. Chi teme il Signore onora il padre e serve come padroni i suoi genitori. Padroni, capirai, con le azioni e con le parole onora tuo padre, perché scenda su di te la sua benedizione, perché la benedizione del padre consolida le case dei figli, la maledizione della madre ne scalza le fondamenta. Poi, e se c'ho un genitore che è peccatore, non si parla male, perché un genitore che è peccatore rimane un genitore. Non vantarti del disonore di tuo padre, perché il disonore del padre non è gloria per te. La gloria di un uomo dipende dall'onore di suo padre, e vergogna per i figli è una madre nel disonore. Ecco che vanno all'inferno quelli che mettono il genitore all'ospizio. Figlio, soccorri tuo padre nella vecchiaia, non contristarlo durante la sua vita. Sii indulgente, anche se diventa matto, cioè se perde il senno, non disprezzarlo mentre tu sei nel pieno vigore. Ricordate i figli di Noè, che quando si era ubriacato e stava in giro nudo, si sono girati dall'altra parte e gli hanno coperto. Sono messi a disprezzarlo perché stava ubriaco e nudo. L'opera buona verso il padre non sarà dimenticata. Otterrà il perdono dei peccati, rinnoverà la sua casa. Nel giorno della tua tribolazione Dio si ricorderà di te, come brina al calore si asciugheranno i tuoi peccati. Chi abbandona il padre come un bestemmiatore, chi insulta sua madre, è maledetto dal Signore. Questa è parola di Dio, questa qui, Attenzione al quarto comandamento, Piccoli e grandi. Poi umiltà e orgoglio, 3:17-28. Un po' più avanti. Figlio, compi le tue opere con mitezza e sarai amato più di un uomo generoso. Quanto più sei grande, tanto più fatti umile e troverai grazia davanti al Signore. Molti sono gli umili e orgogliosi, gli uomini orgogliosi e superbi, ma il Signore rivela ai miti i suoi segreti. Perché grande è la potenza del Signore e dagli umili egli è glorificato. Non cercare cose troppo difficili per te, non sputare cose troppo grandi per te. Le cose che ti sono comandate, queste considera, non hai bisogno di quelle nascoste. Non affaticarti in opere superflue, ti è stato mostrato infatti più di quanto possa comprendere mente umana. La presunzione ha fatto smarrire molti e le cattive illusioni hanno fuorviato i loro pensieri. Ho conosciuto persone di questo genere qui. Se non hai le pupille, tu manchi di luce. Se ti manca la scienza, non dare consigli. Attenzione a dare consigli. Un cuore ostinato alla fine cadrà nel male. Chi ama il pericolo, in esso si perderà. Consigli per i buoni confessori. Propongo con il tuo santo aiuto, che non ho detto sabato scorso ai genitori. Chi ama il pericolo, in esso si perderà. Quindi è compito dei genitori togliere le occasioni non necessarie di peccato ai loro figli. Non quelle necessarie che è possibile. Così come è compito nostro, come diciamo nell'atto di dolore, fuggire le occasioni di peccato. Perché chi ama il pericolo, in esso si perderà. Un cuore ostinato sarà oppresso da affanni. La testa dura, dobbiamo fare attenzione, perché tutti quanti abbiamo la tentazione della capoccioneria e della caparbietà. Il peccatore aggiungerà peccato a peccato. Per la misera condizione del superbo non c'è rimedio, perché in lui è radicata la pianta del male. Quindi questi sono sempre da super meditare. Poi c'è una sezione dedicata all'elemosina e alla carità. 3:29-4:10. Corro. Andiamo un pochino avanti. Il cuore sapiente medita le parabole, un orecchio attento è quanto desidera il saggio. L'acqua spegne il fuoco che divampa e l'elemosina espia i peccati. Prima, quindi, uno ha tanti peccati che ha fatto. Ecco, il mezzo migliore per espiarli non sono le penitenze, come dire, sensibili, è l'elemosina. Dici, ma io sono povero, non fa niente. Fare l'elemosina dell'obolo della vedova, l'elemosina possono fare tutti. E tutti possono fare le opere di misericordia spirituale che non costano, anche se non possono dare i soldi. Chi ricambia il bene provvede all'avvenire e al tempo della caduta troverà sostegno. Figlio, non rifiutare al povero il necessario per la vita, non essere insensibile allo sguardo dei bisognosi. Non rattristare chi ha fame e non esasperare chi è in difficoltà. Non turbare un cuore già esasperato, non negare un dono al bisognoso. Non respingere la supplica del povero, non distogliere lo sguardo dall'indigente. Da chi ti chiede non distogliere lo sguardo. Vedete, questa è un'espressione ripresa testualmente nel Vangelo. Da a chiunque ti chiede. Non dare a lui l'occasione di maledirti, perché se egli ti maledice nell'amarezza del cuore, il suo creatore ne esaudirà la preghiera. Attenzione, se un povero ci maledice, Dio lo ascolta. Se ci maledice a causa della nostra durezza di cuore, non suo venire. Fatti amare dalla comunità e davanti a un grande abbassa il capo. Porgi il tuo orecchio al povero e rendigli un saluto di pace, con mitezza. Strappa l'oppresso dal potere dell'oppressore e non essere meschino quando giudichi. Sii come un padre per gli orfani, come un marito per la loro madre. sarai come un figlio dell'Altissimo ed egli ti amerà più di tua madre. Ecco, vediamo qualche altro brano ancora, perché ce ne stanno alcuni che sono simpatici. Poi tanto ci abbiamo i compiti a casa. Ma ci abbiamo uno sulla ricchezza e la presunzione, 5.1.8. Non confidare nelle tue ricchezze, non dire basto a me stesso, non seguire il tuo istinto e la tua forza secondando le passioni del tuo cuore. Non dire chi mi dominerà, perché il Signore senza dubbio farà giustizia. Ecco, non dire, questa altra frase, ho peccato, cosa mi è successo? Sono morto? Dio mi ha fulminato? Perché il Signore è paziente. Non essere troppo sicuro del perdono, per non aggiungere peccato a peccato, come Elia ho fatto nella festa della Divina Misericordia, tanto per non dire la sua compassione è grande, mi perdonerai molti peccati. Sta scritto nella Bibbia questo qui, perché presso di lui c'è misericordia e ira, non solo misericordia, e il suo sdegno si riverserà sui peccatori. Non aspettare a convertirti al Signore anche tra i presenti, faccio domani, poi lo farò, questo vale anche per me, e non rimandare di giorno in giorno, perché improvvisa scoppierà l'ira del Signore e al tempo del castigo sarà annientato. Ogni giorno che noi facciamo passare senza essersi convertiti, non aver fatto una cosa buona che il Signore ci dieta, un giorno in meno, non lo recupereremo mai più e ci pentiremo quando saremo di là di essere stati tardi. Se abbiamo avuto ancora la possibilità di mettere in azione ciò che il Signore ci chiede di fare, non ventilare il grano ad ogni invento e non camminare su qualsiasi sentiero, così fa il peccatore che è bugiardo. Ok, poi abbiamo l'amicizia, ci sono delle pagine stupende sull'amicizia, 6, 5, 17. Ci ho fatto gli incontri anche giovanotti. Una bocca amabile moltiplica gli amici, attenzione, e una lingua affabile le buone relazioni. Amabilità e affabilità, due virtù su cui dobbiamo tutti esercitarci, molto graditi a Dio e anche al prossimo. Siano molti quelli che vivono in pace con te, ma tuo consigliere uno su mille. Non si chiede consiglio al primo che si incontra per strada. Non si sente il consiglio delle amiche o dello che stanno al supermercato o alla fruttarolo. Se vuoi farti un amico, mettilo alla prova, non fidarti subito di lui. Fatelo. C'è infatti chi è amico quando gli fa comodo, ma non resiste nel giorno della tua sventura. C'è anche l'amico che si cambia in nemico. Sapresti quanti? E scoprirai i vostri litigi al suo disonore. C'è l'amico compagno di tavola, quello cui si va a mangiare la pizza insieme, ma non resiste nel giorno della tua sventura. Nella tua fortuna sarà un altro te stesso e parlerà liberamente con i tuoi servi, ma se sarai umiliato si ergerà contro di te e si nasconderà dalla tua presenza. Tieniti lontano dai tuoi nemici, ma guardati anche dai tuoi amici. Un amico fedele è rifugio sicuro. Io vi invito a pensare se avete un amico fedele, uno solo. Io ci devo pensare se ho un amico fedele, molto. È rifugio sicuro, chi lo trova trova un tesoro. Per un amico fedele non c'è prezzo, non c'è misura per il suo valore. Un amico fedele è medicina perché dà vita, lo troveranno quelli che temono il Signore. Guardate che gli amici non esistono se non, salvo rare eccezioni, esistono compagni di tavola, esistono compagni di gioco, esistono compagni di divertimento, esistono colleghi di lavoro, esistono compagni di chiacchiere, eccetera, ma gli amici lo troveranno quelli che temono il Signore. Chi teme il Signore sa scegliere gli amici vanno scelti, perché come è lui, tali saranno i suoi amici. dagli amici che c'hai ti dirò chi sei. Questo è grande sapienza. C'è una lunga sezione sulle donne, lunghissima. 25-12, attenzione, leggiamo giusto qualcosa, perché le donne sono abbastanza rovinate in questa lunga sezione, però qualcosa ce la leggiamo, eh? 25-12, 26-18, no, ecco. Il timore del Signore è inizio di amore per Lui, la fede è inizio di adesione a Lui. Qualunque ferita, ma non la ferita del cuore. Qualunque malvagità, ma non la malvagità di una donna. Confermo. Le donne sono cattivissime, altro è cattivissimo me. Qualunque sventura, ma non quella causata da persone che odiano. Qualunque vendetta, ma non la vendetta dei nemici. Non c'è veleno peggiore del veleno di un serpente, non c'è ira peggiore dell'ira di una donna. Preferirei abitare con un leone, con un drago, piuttosto che abitare con una donna malvagia. La malvagità di una donna ne altera l'aspetto, cambiano faccia quando diventano cattive. Rende il suo volto tetro come quello di un orso. Del libro del Siracide, eh? Suo marito siede in mezzo ai suoi vicini e senza volerlo geme amaramente. Sapeste quanti mariti poi disgraziati che conoscono, perché c'è... adesso i mariti li prendono e le fiondano dalla finestra, però c'è pure qualcuno, a me qualcuno mi vuole dire che la moglie lo mena, mi mena, mi go... e quello zitto se gli dà le botte. Non è che mi stanno il contrario, magari qualche volta. Succede spesso il contrario, però insomma, se te capita un'arpia vicino, voglio vedere come stai messo, eh? Ah, non fate i preti per non sapere troppe storiacce, eh? Ma una pena te prendi, dice, perché io ho pure la grata davanti, non lo vedo nemmeno, dico, ma questo me l'abbraccio, che gli vuoi dire? Che dico, butta la finestra, che devo dire? Ogni malizia è nulla di fronte alla malizia di una donna. E moglie manda pure un accidente, possa piombarle addosso la sorte del peccatore. Come una salita sabbiosa per i piedi di un vecchio, così la donna linguacciuta per un uomo pacifico. E linguacce. Non soccombere al fascino di una donna, per una donna non ardere di passione. Motivo di sdegno, di rimprovero e di grande disprezzo è una donna che mantiene il proprio marito. Animo abbattuto e volto triste e ferita al cuore è una donna malvagia. Mani inerti e ginocchia infiacchite, tale è colei che non rende felice il proprio marito. Dalla donna inizia il peccato e per causa sua tutti moriamo. Purtroppo è la verità. È così. Non dare all'acqua via d'uscita, né libertà di parlare a una donna malvagia. Chi è che fa tutte le chiacchiere qui su Don Leonardo a Borgo San Michele? Mica sono l'omini, sono pochi l'omini. Se non cammina al cenno della tua mano, separala dalla tua carne. Andiamo avanti, che queste cose sono un po' divertenti, eh? Fortunato il marito di una brava moglie, il numero dei suoi giorni sarà doppio. Una donna valorosa è la gioia del marito e gli passerà in pace i suoi anni. Una donna, una brava moglie, è davvero una fortuna. Viene assegnata a chi teme il Signore, quindi a chi se la merita. Ricco o povera o povero, il suo cuore è contento, in ogni circostanza il suo volto è gioioso. Di tre cose il mio cuore ha paura e per la quarta sono spaventato. Una calunnia diffusa in città, un tumulto di popolo e una falsa accusa, queste sono le tre, sono cose peggiori della morte. Ma crepacuore e lutto è una donna gelosa di un'altra. Il flagello della sua lingua fa presa su tutti. Vero, e ve lo dico da prete, Gioco di buoi sconnesso è una cattiva moglie. Chi la prende è come chi afferra uno scorpione. Motivo di grande sdegno è una donna che si ubriaca. Non riuscirà a nascondere la sua vergogna. Una donna sensuale ha lo sguardo eccitato. La si riconosce dalle sue occhiate. Attenzione, fa buona guardia alle mamme e ai papà che mandano in giro le figlie femmine nude. Fa buona guardia a una figlia sfrenata, perché non ne approfitti se trova indulgenza. Guardali dalla donna che ha lo sguardo impudente. Non meravigliarti poi se ti fa del male. Versetto 13. La grazia di una donna allieta il marito. Il suo senno gli rinvigorisce le ossa. È un dono del Signore una donna silenziosa. Non c'è prezzo per una donna educata. Grazia su grazia una donna pudica. Non si può valutare il pregio di una donna riservata. Vabbè, fermiamoci che c'è sta... La donna sfrontata viene stimata come un cane. Quella che ha pudore teme il Signore. La donna che onora il marito a tutti appare saggia, versetti 25 e seguenti. Quella orgogliosa che lo umilia sarà empia per tutti. Felice il marito di una brava moglie, il numero dei suoi giorni sarà raddoppiato. La donna che grida ed è chiacchierona è come tromba di guerra che suona la carica. L'uomo che si trova in simili condizioni passa la vita tra rumori di guerra. Bene? Adesso no, le ultime cose per le mamme col cuore tenero. Altra mia disperazione. L'educazione dei figli, chi è venuto via negli incontri se le ha già sentite queste cose qua. Poverino che dopo sente tanta bua se gli becca uno scolaccione, allora ecco qua. Andiamo un attimo a vedere questi poveri figli. Ecco, poverini, poverini, poverini. Cominciamo dal capitolo settimo. Adesso arrivano un po' di frustate, eh? Versetto 23. Ai figli educali. Cosa fa quasi nessuno oggi. Fa loro piegare il collo fin dalla giovinezza. Ai figli vigila sul loro corpo. Vigila sul loro corpo e non mostrare loro un volto troppo indulgente. Fa sposare tua figlia e avrai compiuto un grande affare, ma dalla a un uomo assennato. Questo è il primo paragrafo, questo è soft. Poi c'è un altro. Il figlio maleducato e la figlia sfacciata. Capitolo 22, versetti 3 e 5. Un figlio maleducato è la vergogna di un padre. Capito? Quindi quando uno dice un figlio è maleducato, non offende il figlio, offende il genitore, non offende lui. Se è una figlia, il danno è più grave. Una figlia sensata troverà marito. La svergognata, capite chi è la svergognata? È un dolore per chi l'ha generata. La figlia sfacciata disonora il padre e il marito, e dall'uno e dall'altro sarà disprezzata. Questo è sempre ancora soft, eh? Ecco, adesso arriva il clou. Capitolo 30, versetti 1-13. Chi ama il proprio figlio usa spesso la frusta per lui, per gioire di lui alla fine. Io ce l'ho le buste, le regalo, neanche le vendo o le noleggio, sono le fruste da figli, sono quelle, ecco. Chi corregge il proprio figlio ne trarrà vantaggio e se ne potrà vantare con i suoi conoscenti. Tutto sabato scorso ho detto alle mamme la sindrome del telefono azzurro, ci sta, tra le varie sindrome, e non c'erano tutte quelle che stanno qui, la sindrome del telefono azzurro. I figli non si picchiano. O dici tu? La Bibbia dice esattamente il contrario. Chi ama il proprio figlio lo spesso la frusta per lui. Non dico la frusta questa è un'espressione simbolica, prima scherzavo, no? Ecco, però tra i figli non si picchiano e chi ama proprio figlio usa la frusta, ci sta chiaramente un... Che c'è? Versetto 7, chi accarezza un figlio, poverino, ha fatto tanto bello, tanto caro, ne fascerà poi le ferite. E si prenderà gli accidenti della moglie o del marito, questo ve lo dico io, la prete. A ogni grido il suo cuore sarà sconvolto. Un cavallo non domato diventa caparbio e un figlio lasciato a se stesso diventa testardo. Vezzezza il figlio, fagli caro caro, ed egli ti riserverà delle sorprese, scherza con lui e ti procurerà dispiaceri. Non ridere con lui e non doverti rattristare e non debba alla fine digrignare i denti. Non concedergli libertà in gioventù, anche se oggi lo fanno tutti, questa rimane doc. E non prendere alla leggera i suoi errori, l'altra sindrome della minimizzazione, ma no, che ci fa? Piegagli il collo quando è giovane, battigli in fianchi finché è fanciullo, perché poi intestardito non ti disobbedisca e tu ne abbia un profondo dolore. Educa tuo figlio e prenditi cura di lui, così non dovrai sopportare la sua insolenza. Ecco, comprì questa parola di Dio, poi il resto sono parole, ecco, finiamo così. Comunque il libro del Siracide è ancora ampiamente, è quasi tutto così. Poi nella seconda e nella terza sezione ci sono alcuni elogi della sapienza di Dio, vi ripeto, nella creazione e nella storia della salvezza, e poi l'epilogo. È molto bello, se uno meditasse questo per un anno intero, ecco, fare la meditazione, quella che danno i santi padri spirituali, con un buon proposito, verificarsi fino a quando non l'ha messo in pratica, qui in breve avrebbe molto profitto spirituale. Va bene, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Amen.